Sì, ascolta, io invece sto provando, ho fatto una prolunga per un microfono. Suonava bene? Senti alternata qualcosa? È perfetto. 9:20 Radio 5, di Ruscio. No, sono entrato alla radio perché ho preso 2 spinotti da, come si chiama, AliExpress, maschio e femmina, e ho fatto una prolunga, siccome in macchina ce l'ho a destra del lato passeggero e non arriva bene il microfono, devo stare sempre a tirare, la molla è un po' rigida. E quindi ho fatto una prolunga di qualche metro, un metro forse, quelle a molla, dai. Ho collegato i fili passanti, dai, uno con uno, due con due, tre, insomma, lo sto provando adesso. Va benissimo, ti ascolto bene. Io ho adattato un preamplificato su questa radio e lo stavo provando. Anche io ho fatto la prolunga per evitare di stare a saldare e a risaldare. Io ho messo la corda invece, mi ha soltato. Ehi, forte e chiaro. Insomma, funziona questo saltometro. Ci ha pagato, va bene. C'hai dei picchi, Claudio, mostruosi. Oh, è stato messo l'amplificatore dentro questa radio. Guarda, così sono con l'amplificatore inserito. Allora, ecco qua, lo c'è. Ecco, devo abbassare questo. E così invece sono liscio, molto scende. Ehi, neanche a paragone. Non funziona, 100 watt. Adesso questo è un Galaxy Saturn Echo Turbo. Ciao Franco, la radio com'è, bella? La parte mia è bella, amplificata, forte. Sì, Claudio, va bene, ti ascolto bene. No, io ho adattato un preamplificato a questa radio piccolina. Oh, è già dove allora? Va bene, l'importante è che ci sentiamo, eh. Non era tanto che non usavo sta radio, ma l'ho mandato a fare questa modifica. Praticamente c'è un 747 all'interno, solo la scheda però, la scheda del finale di preamplificazione. Tolta la scheda Echo che non serve a niente, l'Echo del Galaxy, proprio una grandissima gaggada. Nell'interruttore off Echo, a posto di esserci scritto Echo, c'è scritto AMP, col trasferibile, fatto bene, uguale, la stessa misura, bello. Lo accendo e lo spengo, così è acceso e così è spento e così è acceso, cambio. Allora, quando lo spegni la radio è più bassa, come l'attacchi la radio rimane più forte. Per essere pignoli si sente appena appena di alternata, ma proprio per essere pignoli, No, qui passi da, addirittura non si è mai arrivato così forte neanche col K. No, non è alternata, fra la ventola del raffreddamento abbiamo dovuto mettere, capito, perché tra la radio e adesso il finale, che la radio insomma eroga 100 watt, è stata messa dietro, ma cosa, la professionista non vedi niente, la ventola che raffredda praticamente il finale dell'amplificatore, capite? La ventolina piccolina. Adesso gli attacchi dietro il Galaxy sono 3, anziché uno sono 3, forato il pannello, tutti messi i connettori da pannello, ho fatto un lavoro da regolarti. Oh, bene, poi se pensi che è agganciato c'hai ancora picchi positivi, cioè non si, ripeto, non si è mai arrivato così forte. No, va bene, perché stai erogando tutto, c'è l'alimentazione diretta dalla radio, ho capito, l'alimentazione è presa dal trasformatore dalla parte dei 12 volti, quindi non vedi niente, no. È tutto all'interno della radio, un turbo, un Galaxy Turbo. Ottimo lavoro. Fatto bene. Qui a Sassari? Sì, qua a Sassari, fatto a Sassari. Vedi come rulla bene fa questa radio. Così è. Bene. Io invece ho fatto una prolunga, visto che il mic rimaneva un po' corto, no? In macchina, quando lo uso in macchina, ho fatto una prolunghetta, adesso la stavo provando, siete entrati voi. No, io ce l'avevo acceso, la verità, per tenerlo in caldo, e ho visto che già viaggia, va bene, ottimo per la truppa. Come dice Alghero, già scriveggia. Ah, scriveggia, è oggi mio, famiglia, ovvero? È mia la grande. No, l'altro è un caparagone, fra l'altro va molto meglio. Qua tieni dentro un barattolo, vai, dentro la scatola. Questo è bambino, ovvero? Questa è chiara. Questo è l'MP più 4. Questa è perfetta, chiarissima. Questa l'ho raccolta su questo apparecchietto piccolo. Ma hai aumentato il segnale? E ho aumentato appena i watt qua, da questa radio stesso. Sì, appena. Va bene. Sei a 9.40. Sì, addirittura. Sì, guarda che poca gente ci arriva a questi livelli. Claudio, da te quant'è? Dai, sei 9 più 20. Volevo fare 9 più 10. Vabbè, fra, ma siete vicino voi, no? Non ce n'è paragone da fare. Attaccato a te, Franco. Sì, ma per dire, non è mai arrivato nessuno. Un po' arriva, come si chiama? Tore Squalo arriva forte qua, non so dove sia, ma è forte. Forse è ancora più forte adesso, agganciato. Invece Tore è liscio, Lontano sono io, dai. Già, l'importante è che mi sentite, già va bene. No, no, ripeto, non sei mai arrivato così forte, ripeto. Per forza stai arrivando 100 watt pieni. Vediamo, sono atti 250, sì, 100 watt. Dai, tu, buoni, buoni. Ieri a tutti, si è messo bene, te lo dà l'alimentazione giusta, 13,8, stazionario non ce n'è, vedi la radio non distorce, niente, l'ingresso è giusto, 5 watt d'ingresso, va bene. Quindi quando sganci sei a 5? Sganciato sì. O anche meno magari, perché qui scende parecchio quando sganci. Allora, vediamo un po'. Allora. Ecco, così ho messo a 6 watt, la modulazione è rimasta stabile, va bene. Hai preso un altro punto Santiago, quasi, un mezzo punto abbondante hai preso. Figurati, posso salire ancora, perché l'ingresso è regolabile. L'ingresso è da 5 watt a 15 watt, però mi ha detto di non darle più di 6 watt, 6-7 watt, poco fa ero a 4 watt, adesso l'ho messo a 6 watt, 2 watt in più, 2 watt, stiamo superando i 100 watt. Cioè, no, va bene, diciamo non aumenta come segnale di picco, però come portante più alta, è leggermente più alta. No, va bene, si vede che è alimentato bene. No, va bene, alla grande. Io sgancio perché so, mio figlio sta lamentando che gli sta entrando nel computer. Ehi, io ti sento lo stesso, non c'è problema. Gappa. Adesso la prova in macchina, questa lunga, vediamo se funziona. Avanti, fra. Ok, dai, questa è l'altra radio che sto provando, va bene? Ehi, abbassa, troppo, come si dice, amplificata. Troppo alta, Vabbè, qua è a zero. Aspetta un attimo. Guarda un po' così se va bene. E io metterei ancora, in città, Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene, è forte e chiara. Vabbè, questa è un'altra radio che stavo provando, cioè va qua, ce l'avevo ferma. La stavo provando giusto adesso, stava funzionando bene, tutto qua. Ok. Funziona. Già schiereggia, già va bene. Quindi questo microfono qua va bene, se lo metto sull'altra radio, non rende come questa, capito? Come mai? Cosa c'ha di resa? Cos'è che non va? Allora, questo microfono stava adattando a quel Midland piccolino e non mi rende come questo. Vabbè, adesso sto utilizzando un Magnum qua, capito? No, non già va bene, fa. Alla grande, ho voglia che va bene. Sì, io giro, non Alghero, quasi Alghero, a Punta Moro. Cosa fa a Punta Moro? Oggi stavo lavorando stamattina, fino a poco fa, dai, fino a mezz'ora fa, Punta Moro. Dove è Punta Moro? L'ho già sentito. Praticamente un po' prima di Ungias, un paio di chilometri prima di Alghero, dai. Sto venendo da Sassari, da Mamuntanas. Ah, sì, quella zona lì, ho capito. Va bene. No, io stamattina ero impegnato, non ho acceso, stavo solo facendo alcune cosette e basta. KK, avanti fra. E così. Adesso provo a provare con la radio piccola con il suo microfono originale a vedere se è meglio dall'alto di questo preamplificato. Beh, capo, io intanto mi sistemo un po' di roba qua, saldature e cose varie, dai, metto un po' di ordine visto che si è raffreddato. Fai, già siamo qua, non c'è problema. Tu vai a casa, qua? Sì, dai, in linea di massima, sì, solito problema con Anna, ma comunque, diciamo di sì, fra, ho visto che ci siamo sentiti anche stamattina con Anna. Che non è, ma io ne ho da una parte e dall'altra, la parte dei vecchietti, dai. Aspetto mia madre che doveva prendere l'antibiotico, ha iniziato da 2 giorni, ho portato 2 scatole, anzi 3 scatole, ho detto adesso vorrei iniziare la terza. No, dice, sono ancora, ho finito appena la prima, che cazza. Vuol dire che ha sbagliato qualche cosa, se l'ha dimenticata qualche giorno. Infatti c'è Rosa che l'ha incazzata nera. Dobbiamo seguirlo, anche mia suocera faceva così. Le ho prese e poi andavamo a controllare quanto ne aveva preso e ogni tanto se ne dimenticava una. Noia, vai là. 5 minuti di tempo. Fai. Va bene, sì. Meglio degli altri. Beh, chi c'è un'altra? Un altro pianeta, dai. Quella va bene. No, beh, ma io non mi posso lamentare con questo Galaxy, posso tranquillamente usarlo senza nessun problema. Funziona alla grande. L'unico problema è lo smitter che non segna molto. Però non mi interessa molto. Ma lascialo così. Io domani devo andare in sezione. Domani sera, capito. Per la preparazione degli esami. Con chi ti sei iscritto? Con Antonio. Cava di positivo. C'è anche Daniele lì. E anche Daniele sta prendendo. Figlia, a me non sei più avvantaggiato, capito? Sai quello che devi studiare, è inutile ti metti a studiare poi le cose che non devi studiare, così sai quello che devi fare. No, poi Antonio è un bravo preparatore, preparato tecnicamente, professionalmente, perciò affidatevi a persone valide, perché altrimenti non le togliete piedi, anche studiando da solo fai confusione, fai casino, capito? Ma infatti, è così. Invece lì c'è un programma da seguire, segui il programma che devi fare, le cose ti vengono più facili, capite? Certo che sì, almeno sai quello che devi studiare. E ti studi tutto il libro quando poi magari non serve a niente, capito? Magari ti fanno le domande diverse di quello che hai studiato. No, allora quello sanno le cose che sono da studiare. C'è un programma da seguire, capito? Quindi ti ripeto, ti viene più facile. Perché ti prepari quelle cose lì, normative, la parte tecnica, tutte le cose, fai molto meglio. Si conferma. Qua piove di brutto. Che casino. Belle giornate, poi pioggia, torna a vento, pioggia, caldo, freddo, non se ne capisce niente. E anche qua, tu sei in città, quindi se vuoi puoi uscire, fare. Io sono lontano, quindi non posso uscire manco a piedi. E cosa dici? Quando sta piovendo così non mi viene voglia neanche di uscire da nessuna parte. Era in campagna ieri, poi me la sono salito, non avevo più voglia, c'era freddo, un po' di vento, un fastidioso. Tagliato l'erba e torna crescendo. No, dire a me. Io beh, il prato mi fa bene che piova perché lo innaffia, cresce con la serva, ci metto 5 minuti, ma l'altro giorno con il spugliatore furi, tutto in giro la casa, ragazzi me ne sci dalla mazza. Adesso sta piovendo un paio di giorni ed è di nuovo punti a capo. Adesso ricresce. Ma io l'ho tagliata quando è? 4 giorni fa. E sta crescendo di nuovo alla grande, capito? Quindi adesso bisogna ritagliare, ma adesso ancora non taglio niente, fino a quando non finiscono le piogge. Cazzo, l'ho tagliata oggi, è giovedì, me l'ho tagliata domenica, io fui. Domenica l'ho tagliata, quindi 4 giorni fa. Cosa ne so? giochi. Vabbè, comunque, quando cresce la rimettiamo a posto, non c'è problema. Cosa puoi fare? Questo è già un trono, questo cespugliatore che c'ho io, se ne butta le braccia. Ehi, c'ho un 42 io. Pesa un bel. Però ci vuole. Campagna, tu non c'hai il prato, io c'ho anche il prato, quindi devo fare il doppio lavoro. Sì, ma io ne ho un bel da tagliare, io quella di su l'ho tutta tagliata, capito? Adesso mi è rimasta quella dell'ingresso, che l'avevo già tagliata, e poi basta, ho finito, dai, diciamo. Il più è fatto. Vabbè, già è così, però, ti ripeto, adesso non brucia né, non secca neanche, bisogna aspettare. Fino a metà maggio puoi bruciare, poi non puoi più bruciare. No, vabbè, non devo bruciare niente, fra. Io la... c'ho la serba, va direttamente dentro il cestello, capito? Fa rasando e aspirando, se no non c'è erba. Poi quando è pronto il cestello la metto dentro le buste e la butto a sassari nel coso adeguato. E ora c'è quel trattorino piccolino, con la quattro ruote, con il sacchetto dietro. Ehi, si conferma. Io c'ho quello, due cavalli Honda, ma taglia un bel, so se c'è Pietro è un casino. No, è due cavalli, il mio è molto più grande, è un MTB, l'ho comprato da Sana da Pinuccio, ho pagato una barca di soldi, va benzina verde. E anche questo va a benzina verde. Meglio sono quelli che ho visto alla Bricco, quei trattori che ti siedi sopra, quelli sì. Ehi, volevo prendere quelle, ma è troppo piccolo, capito? Sono 50 metri, cosa non fa? Se c'è un giardino grande o terreno, insomma, ma il mio non è grande, grande. E quindi ho preferito prendere quello. E metti la cosa, schiacci e ti appoggi e cammina da sola, no? Non è faticoso, già va bene. E 2000, l'ho vista la Bricco, mi sa che costa 2800 euro, un affare del genere. Sì, quello che ti siedi sì. No, il mio è costato intorno ai neanche 500 euro. 2008 l'ho visto, qui ce n'è uno da 1600, un altro da 1400, dipende la cilindrata che vuoi, tutto lì. Ma già quando andava a Cina, adesso mi arrangio così, con quello piccolo che c'ho, adesso io l'ho tagliata, poi ci passo quel tratturino, almeno lo porto in piano, e poi va benissimo, diciamo, dai. Già andava. E io voglio che va bene, alla grande, no, non bene, no, benissimo va. Ottimo per la truppa. Quel 48 l'ho venduto, cla. Oh, spero che non l'abbia regalato, l'hai venduto bene. Ho venduto bene, 150 euro l'ho dato, a uno dei tempi l'ho venduto a un camionista. E io già va bene, 150 euro già va bene. Ma cosa me ne facevo, cla? Cosa ne faccio? Il secco da bui, ma non ne fai niente. Me ne ho una in macchina, quello che tu hai visto, quello piccolino e basta. Boh, basta, non me ne faccio niente. Ma io infatti, alla fine cosa te ne vai? Nunca te ne vai. Ma tieni due rampate in ogni in casa a bagosa, fa niente. Ma no, va bene. Ottimo, ottimo. Adesso faccio fuori anche l'altro che c'ho, quell'altro, ne ho un altro, un Midland, quello da 40 canali, lo stesso lo faccio in soldi anche questo. Non mi arrivato nulla, cla, poi se prendo quella cosa lì, questa qua ci butto via tutto, mi cambio tutto, mi tengo come la linea del 680 e basta, poi il baracchino non entra mai più, boh, finito. No, vabbè, anche il baracchino già ci vuole. Quello è il problema, bisogna andare un colpo all'incudine, non a martello. E vabbè, dico, mi prenderò un'altra radio seria, più in là, adesso vediamo. Vabbè, un baracchino uno lo tengo, poi gli altri dipendono tutto, cosa me ne faccio qua? Ti tieni 80 e basta, baracchini o già ne vai. Io la giro di tutti i baracchini. Ho tutto HF e poi mi sono tenuto il DAC e il Saturn, basta. È più che sufficiente. Io infatti non ne faccio niente. Avanti il brecco. No, forse ho bussato io, per dire che sono rientrato. Poi c'era Claudio, ma non lo vuoi sistemare lo Smith, ti interessa sapere, o ce li hai i trim di regolazione, li sai? Che cosa? Se mi hai detto che lo Smith segna poco. No, ma non è un problema di regolazione di trimmer o fra. Cioè, dovete sapere una cosa, questo non lo dico io, l'ha detto un tecnico, che intanto i trimmer sono tutti regolati bene come devono essere regolati, però quando lo Smith si abbassa non è un problema di regolazione di resistenza variabile, così chiamati trimmer, è un problema di perdita di qualche cosa sulla parte ricevente, che può essere una resistenza, un dio, un transistor, una cagata, capito? Non si tocca nei trimmer, le resistenze variabili bisogna lasciarle come le mettere a casa, perché se tu vai a toccarle stai andando a starare la radio, capito? Perché per poter tarare uno strumento, uno Smith così chiamato, ci vogliono le sonde per poterlo tarare giusto. Non è che uno mette il cacciavite, quando arrivi 9,20, aspettati 9,20, non funziona così fra, questo ti ripeto, non lo dico io, ma me l'ha detto un tecnico che queste cose le fa. Quando lo Smith non segna a regolare, vuol dire che c'è qualche problema sulla parte ricevente, non è che è andato in tilt la resistenza variabile. No, lo so, ma si parte dal presupposto che tanto non sono affidabili come Smith, sono baracchini, non è una parola, è un capo, dai. Soltanto che questi Galaxy, come tutti i samurai, sono tutti avari, cioè segnano pochissimo. Quando io do i controlli, neanche la faccia intera a dire che mi arrivi segnando a Santiago 1, 2, 3, sono troppo avari sono. Ma non lo so, se magari quello lì è avaro dalla casa, ma questo io ne ho avuto altri di Galaxy e funzionano molto bene. Questo qua vuol dire che c'è qualche componente da sostituire, ma non è detto che devi andare a toccare la regolazione della resistenza variabile, capito, dello Smith, perché vai a sarare tutta la parte ricevente, questo è quello che penso io, ma non solo io, lo pensano chi ripara queste cose. No, per tararlo gli dai, attacchi la sonda, come dici tu, gli dai non so con che potenza gli dai un segnale, a quella potenza deve risultare per esempio 9, ecco, così loro lo tarano così, dandogli un segnale di una certa intensità, lo tarano poi di conseguenza. Sì, ma infatti mi ha spiegato che va dato il segnale con la sonda e poi fatta la taratura, ma sempre con strumenti davanti, non è che tu vai lì, apri la radio, io sento VRV, VRV, VRQ, VRA, metti cacciavite, giri a posto, ah ok, ho risolto il problema. Non è risolto il problema, perché si è andato a starare una resistenza variabile che è stata tarata dalla casa, tutto lì. Purtroppo guadagno due di questi, sia il Galaxy che il Samurai. Li ho appesi un po' perché, ripeto, era vergognoso. Era possibile che un segnale. Ma sono sempre stati così dalla fabbrica, sono sempre stati avari come segnale. Ah beh, ma è preferibile dire, guarda, Smith non mi funziona. Basta, senza. Capito? Io so quanto arrivate più o meno, perché io ho il capo, quindi ho fatto già i controlli quando qua sul Galaxy 6 S9 aggiungo 10 se si dice, o più 10 se si è agganciato, se 9 più 20. Ma è una cosa approssimativa, se vuoi che devo dare il segnale bene, commuto, passo col capo e te lo do, non è quello il problema, però questi sono i segnali che arrivano, io non devo aprire la radio e mettermi a toccare cose che posso fare solo danno, come è già successo a qualcuno, capito? Tutto qua. Avanti Franco, cosa ne pensi? Si conferma, sì, secondo lo già tu chi fa i danni in definitiva, poi con gli apparecchi. Cioè è un casino, perché non devi, addirittura non si possono usare neanche così i microfoni preamplificati, perché sono deboli il modulatore, la prima cosa che parte è il modulatore. Sì, ma poi mi hanno detto che è una radio che bisogna, quando tu accendi l'eco, usi l'eco, che poi chiamiamo l'eco, un reverbero, una gaggata, io l'ho eliminato, al posto dell'eco ho fatto mettere la scheda del preamplificatore da 100 watt, io se ne vai di sei gaggata. E uso l'interruttore dell'eco per accendere l'amplificatore, accenderlo e spegnerlo, capito? Però mi hanno detto che se usi l'eco non devi usare il microfono preamplificato, devi usare il microfono normale, perché altrimenti va in contrasto. faccia l'eco del Galaxy, allora l'ho fatto togliere completamente e al posto della scheda eco che c'era lo spazio ho fatto mettere la scheda con i finali da 100 watt. Avanti Fra. No, ripeto, hai fatto benissimo. Sì, l'eco, poi vabbè, molta gente ne abusa. Io capisco leggermente un piccolo reverbero, ma a volte certa gente diventa incomprensibile. No, ma poi è brutto proprio, quello del Galaxy è brutto perché non è un eco bello corposo come può essere una radio Colt, è proprio un reverbero, sembra che sia dentro una chiesa, è bruttissimo, quindi siccome io non ne uso perché proprio non mi piace, l'ho fatto togliere direttamente, e tutto il circuito, tutto il sistema che appunto era utilizzabile, l'ho fatto utilizzare per accendere e spegni e alimentazione, prendere 12 volt per la scheda da 100 watt. Ma è quello che avevi prima o è un altro di Galaxy? No, questo è sempre quello che ho comprato ad Arino, ce l'ho già un po' di anni. L'ho usato sempre ben poco, molto molto poco, però è fiammante, nuovo nuovo, capito? È nuovo nuovo, fiammante. Quando mi va di usarlo, adesso abbiamo fatto questa modifica, se me lo tengo lo posso usare tranquillamente perché potenza ne ha da vendere adesso. No, no, davvero. Un bel lavoro. Riesci a dissipare bene le calore? Sì, è stata messa una ventolina, quella che senti, tu mi hai detto sentivi, è la ventolina che c'è praticamente nel pannello di dietro, forata, incassata, cioè non vi sembra una radio fatta apposta, un bellissimo lavoro, ed è proprio aspira da dentro, perché adesso chiaramente scalda un pochino di più, aspira e butta fuori, infatti l'aria che sta uscendo adesso ho messo la mano, è tiepida diciamo, cioè si vede che sta dissipando bene. Avrà fatto che penso io da quel lavoro. Ma cioè roba studiata al millesimo, cioè le vicinanze, il dissipatore va qua perché deve prendere, c'è una cosa pazzesca, capito? Deve dissipare così, così, le distanze sono queste, questo va messo qua, questo. Allucinante, se tu apri tutto fascettato, tutto calcolato, arrivare agli interruttori, cazzo, un capolavoro. Così bisogna lavorare, certo, sì. A volte mi guardo certi video di quel tipo che li sistema i baracchini, che mette praticamente i video online, molti Galaxy distrutti dentro, mamma mia, saldati alla coda di gatto, per non dire altre cose, dai, tutti messi male, mamma mia, schede rovinate, ma lasciamo perdere, dai. Ognuno il suo, come dice, avanti fa. Si conferma, ognuno il suo, in definitiva sì. E praticamente è stato tolto tutto il corpo, il circuito del 747 è buttato dentro con l'alimentazione dal trasformatore ai 12, poi l'interruttore a posto dell'eco ti ha fatto l'interruttore, accendi e spegni, e poi ti ha messo i connettori dietro nel pannello, così è. Si conferma, è la ventolina, la ventola di raffreddamento sullo stadio finale. E la ventola di raffreddamento come ce l'hai? Diretta oppure si attacca in automatico tramite un termostato? No, come ti dice l'interruttore del che dai 100 watt si accende la ventolina diretta. Diretta è piccolina, non è molto grande ed è proprio davanti al circuito stampato dei finali. Ho capito, e si conferma, vabbè si poteva mettere anche un termostato volendo, vabbè, ma non è portato, va bene lo stesso, se ce l'hai diretta non c'è nessun problema. Ok, sì Franco, adesso come mi ascolti con questa radio? Sì, è sempre bene, sì. Sì, la ventolina come dici tu si può mettere quella addirittura variabile che gira in base alla temperatura, tipo quella di un computer di casa, dai, ma l'importante è che funzioni quella lì, che non si fermi mai. Poi se che sia veloce o come sia già variabile, pazienza, guarda che funziona. Io ti ascolto bene comunque. In definitiva c'è la diretta, va bene lo stesso, non è un problema. Vabbè, comunque. Esce bene, arrivi bene qua, là, 920, radio Super 5, buona, ultima. Io sto usando il 680, va bene. Va bene, voglia. MC70? Capa di positivo, questa è una vecchia radio, una bella radio, nuova, non so quanti anni c'ha, là. Comunque, non so, sarà, ma i K escono meglio in AM, là. Questa radio mi sa che ha più di 20 anni. La mia, vai, è più vecchia, ci sarà quasi 40. Ma non ho idea quanti anni c'ha. Ocla, ma io penso che anche questa è vecchiotta, è vecchia, vecchia, vecchia. Però è tenuta abbastanza bene, nuova, nuova. Non è graffiata, cioè, nuova. Dimmi, c'è un baracchino, non è una radio seria. E vabbè, però, le radio se le tieni bene ti durano, se poi si comincia col cacciavite dentro, poi quando si toccano le cose che non si devono toccare è un casino. Dimmi, sa, ce ne sono tanto. Stavo dicendo, Ocla, questa radio quanti anni c'ha? Ehi, cazzo, e quanti anni fa te l'ho data quella radio? Più o meno come quella che avevo dato a Pinuccio, 6-7 anni fa. Ma dico, la radio più che altro, quanti anni c'ha proprio la radio quando è uscita? Degli anni 90, degli 80. Senta, pensa tu, non gli ho fatto mai niente a questa radio, E cosa devi farle? È perché quella che ho ritirato due, io una più un certo, una valida, erano tutte e due le mie di 140, sono nuove di pacca, come le lavate, sono dei muletti, capito? Il 430 che c'ho io, il 430 che c'ho io, che Fabrizio, potete chiedere, mi ha cambiato il frequenzimetro, ce l'ho 10 anni, perché si erano bruciati gli ultimi due decimali, ma non ho mai cambiato componentistica, mai. Allora, questa radio qua, l'unica manutenzione che gli devi fare è praticamente la pulizia della ventola che c'è all'interno, basta. Quella gliela faccio spesso e volentieri, infatti sono silenziosissime le mie, capito? Perché essendo in orizzontale la ventola di quelle lunghe, arrotola la polvere, si forma all'interno e poi girando così in orizzontale diventa, fa dei filetti di lana e ti si blocca il cilindretto che la fa girare e quindi va sempre pulita, lubrificata eccetera, capito? Mentre invece quella del 430 che è verticale è dietro, come quella del 440, quelle sono diverse, quella è a pale e quindi è diverso, però vanno pulite anche quelle ogni tanto. In definitiva sì, anche perché se si bloccano quelle ventole va in protezione la radio. Si bloccano quelle ventole, non raffredda al finale, la bruci la radio, non va in protezione. No, questo c'è una protezione, se si dovesse bloccare la ventola, ho visto che c'è un diodo collegato lì sull'alimentazione della ventola, se si... di quei diodi praticamente che usavano negli asciugacapi, non so se li conosci, e quando scaldano troppo si bloccano. Ma chi ce l'hanno adesso quel sistema lì? Uno di 15. Praticamente se si blocca la ventola va in protezione, capito? È un termine, come? Appena passa quella temperatura si interrompe, perché non passa più l'alimentazione. Diciamo che è tipo un termostato di sicurezza, diciamo, dai, un termine così. Meno male che c'è. Invece quelle radio vecchie non ce ne sono, capito? Quelli quando è si brucia il finale direttamente. È stato odore. E poi se ne parte uno, parte il prefinale, ci parte l'altro, parte il cazzo fatto. In quel galaxy c'è un casino di danno allucinante, guarda. Pensavo Gianni ha fatto forse un po' danno al circuito di. Come si chiama? Circuito radio, modulatore. E infatti, no, il resto è tutto a posto, manca solo questo B754 che non è ancora arrivato. E poi lo lavori anche tu. Il B754 è praticamente il finale, che è il finale del coso del modulatore, proprio quello che è crepato, ma addirittura bucato completamente, e più c'era il diodo Zener crepato anche quello, quindi è andato in corto quello e ha bruciato anche quell'altro. Poi ogni tanto prima me l'ha fatto su Galaxy, adesso me lo sta facendo anche su questo qua, sul Samurai. Ogni tanto va via il frequentimetro, però gli do un colpettino e si riprende. Deve essere qualche saldatura che si è staccata. Sicuramente qualche saldatura fredda lì. Lo sto pensando, oppure qualche cablaggio, bisognerebbe smontarlo, pulirlo e rinnessarlo, magari mettere un po' di spray per contatti e vedere se lo fa ancora. Però per adesso un colpettino, ma appena proprio lo sfiori con un dito si riprende. E allora può essere qualche saldatura fredda, qualche falso contatto sul circuito lì. Ma prima non ha fatto l'altro il Super Galaxy, ma per anni non ha funzionato. Adesso c'è la macchina, sa nel fuoco che prende, si è ripreso. In macchina c'ho un vecchio Midland, non so se lo conosci, un 40 canali solo AM, ma funziona benissimo. Quello lì da 3 watt, l'ho portato a 2 watt io, e lo piloto con un B150 e va alla grande. L'ho avuto anch'io il B150, ma tanti anni fa. No, questo l'ho portato una ventina di watt, esce da, no, già dalla casa. L'ho portato un po' quasi al limite, a 20 watt, insomma, dalla macchina qualche watt in più fa comodo, anche perché non ho l'antenna sulla capota, ce l'ho dietro la ruota di scorta. Sì, però vi stavo dicendo, di solito il baracchino per mettere la macchina ci vorrebbero quei baracchini che puoi aumentare e diminuire i watt, capito? Così lo puoi pilotare con l'amplificatore. Se tu ci metti un apparecchio già che ha 10 watt e ci metti l'amplificatore, la prima cosa che succede è che te ne mangia la radio, capito? Sì, va in saturazione. Infatti io questo, adesso sto uscendo per esempio con 4 watt, l'ho abbassato per pilotare quella roba lì. Beh certo, se tu lo piloti più del dovuto praticamente distorce la radio oppure esce più basso del radio, tutto lì. Praticamente quelli della macchina, se tu lo piloti a 2 watt con un amplificatore da 150 va alla grande, e non solo, ti aumenta anche la radio. Aspetta che raccordo un po', perché ho sganciato e c'era qualcosa di fatto. Sì. No, io non ho niente, sto utilizzando solo i watt dell'apparecchio, una ventina, ripeto. Avanti, clac. Ehi, riprendete voi un attimino che mi faccio due chiacchiere con Ilaria. Ehi, saluta a tutti lì in casa, come sempre. Ecco, capito, Fra? Aspetta Fra, voglio provare un altro radietto che c'è a bofferma, a vedere se mi ascolti bene. Mi dai conferma se c'è differenza se attacco l'amplificatore? Adesso con quanti sta uscendo? Insomma, qualche watt ce l'hai? Adesso questo qua sta pilotando, questo sta a 20 watt di Fra. Dunque, segnale è ottimo, è quasi un poco fa. Adesso aspetta un attimo, provo l'altra, a commutare con l'altra. Sento un bip, avanti il bip. Sento il bip ma non ti sento io. Claudio, lo senti tu? Franco, ci sei? Fra, qua, questo qua lo sto pilotando con un preamplificato, con un M300, com'è? No, la radio è bruttissima, ma la tovata tende quasi a innescare, quasi. Va male, non fa bene, dai, capito, non funziona bene. No, no, bruttissima, la radio è brutta. Fai il segnale a vedere. È leggermente più basso, adesso sei 9.30. Guarda che c'è entrato, sentivo qualcuno col bip, non so se è propagazione o qualcuno basso, che io non lo sento. Adesso lo sto pilotando con MB più 4, com'è? Ehi, c'è paragone. Adesso è attaccato con l'amplificatore, va bene? Bene, bene. Ok, vedi, allora il microfono quello non va bene. Adesso voglio fare un'altra prova a mettere il microfono normale. Capo. Questo è il suo microfono originale, com'è? Un po'. Come si dice, castrata, un po' nasina, più bassa naturalmente. La migliore è l'MB più 4, cos'era? Un più 5. E l'MB più 4 c'era pilotato sotto. Comunque questo è normale, perché c'è l'amplificatore attaccato, guarda un po'. 1, 2, 3. No, no, non c'è paragone, no, no. La migliore è quella là. Questo, neanche questa mi piace. Era anche a me, infatti si conferma, non mi piace proprio. No, rimane un po' una zina strana, infatti non lo so. L'altra, la migliore è l'MB più 4, mi hai detto, giusto? Questa è meglio, ovvero? Sì, sì, questa è amplificata, va bene. Ascolta, come antenna cosa c'hai? Una Venox. Ah, va bene, me l'avevi già detto, sì, non mi ricordavo. Ma va bene anche questa antenna, dai, va bene. Va bene, diciamo che non è una bella antenna, però già va bene. Tutto lì. No, con la 300 non va bene quella radio, invece sul coso, sul magno va benissimo, su questa non va bene. Qua ci vorrebbe un microfono preamplificato senza eco. Black, però controllo. Che avanti. Buonasera a tutti ragazzi, anche se piove, pazienza. Un controllo radio, grazie. A me mi sta arrivando Santiago 9 e Radio 5. Ti ringrazio, Claudio Nevada da questa parte, Porto Torres. Salutone a tutti. Ciao Claudio, contraccambia, me la fa la cortesia. E purtroppo non è possibile, c'è un baracchino molto scassato, il meter non va, va schizzi. Comunque hai una radio ottima, è Super 5. Ma dove sei, a casa tua? Ehi, a casa. Ah, è leggermente un pochino più alto di 9, sì, qua, 9,5, radio Super 5, va bene. E se sono col Mobicon, quello il Mobicon 40. Va bene, ottima, ottima, io sto andando col Galaxy Saturn Echo, ti ascolto magnificamente bene. Vediamo un po' se ti sente Franco, Fra, prova a vedere Franco binario. Sì, io passo ma lo sento, per me il portatore è zona negativa. Io sono agganciato, quindi sicuramente mi sentirà un po' meglio lui. Mi senti Claudio, qua, buonasera. E ciao Franco, ti sento benissimo. Che croce sei Santiago 5, la radio molto comprensibile. Non posso dare un rapporto giusto perché ho lo smitter scassato. Vieni avanti ancora Franco. Sì, capa, ti ringrazio per il controllo. Sì, io lo so che non arrivo bene con le parti. Figurati, se sgancio non, scenderò a zero quasi, se sgancio. Va bene, dai, avanti Franco. 59 qua, stai arrivando, va bene, Porto Torres, ok. Rilancio per Claudio, sì Claudio, ho adattato la mia BP4 su questo perché l'altro andava bene. No, no, va bene, va bene. Ti ripeto, ottimo per la truppa. Claudio Nevada, la parte segnale, vabbè, mai detto che, ma la modulazione mia va bene con questo, con Galaxy. E tu sei sempre esuberante, caspita, c'hai un vocione. Ah, hai capito, anche questa si difende bene, allora va bene, no, no, sto andando con il Saturn Echo e il microfono è un Turner più 3B e tutta la potenza della radio che praticamente questo è diventato un Galaxy Saturn Echo Turbo, quindi sta andando con 100 watt pieni, esattamente 90 modulati 100, va bene così, però è un ottimo lavoro, va bene, no, il segnale tuo e Radio Super 5. Grazie Claudio, e ritorno un pochettino in bianco che stavo finendo qua. Comunque ringrazio tutti, una buona serata, un buon proseguimento, magari ci risentiamo più tardi, ciao ciao. Ciao ciao Claudio, piacere averti ascoltato, al prossimo vai binario. Quanto cambia da me a voi il segnale, cosa vuol dire avere l'antenna sul tetto o Franco? Ehi dimmi. Quanto cambia rispetto a me il segnale di Porto Torres, dai. Ho detto, cosa vuol dire avere l'antenna sul tetto? Beh sì, ma tu non c'hai l'antenna sul tetto però. No, ce l'ho sulla finestra, dai. Attaccata al ferro per stendere. E vabbè, arrivi 9.20, 9.25 qua. Io ti ascolto bene. Vabbè, sicuramente siamo vicini in linea d'aria. No, io infatti parlo in lontananza proprio. L'antenna è cieca, non vede niente da nessuna parte, quindi Alghero proprio ancora peggio. Portore un po' ci arrivo, basso ma arrivo, ma Alghero proprio quasi zero. Io Alghero ci arrivo benissimo, vabbè che sono zona aperta e zona alta io. Sicuramente sarai più in alto di me, io sono sotto Sacro Cuore. Ho capito. Ah, vabbè, in distanza l'antenna sul tetto, vabbè, quella che ho io non è che sia una grandissima antenna, però già funziona bene, diciamo. No, ottimo rapporto qualità-prezzo con l'antenna. Poi è piccola, cioè non ha radiali grandi, anzi, è molto comoda. Ah, quell'antenna io non la volevo piazzare, poi l'ho vista a casa, ma lasciala stare che già funziona bene. No, va bene, caspita se va bene. Beh, il bello di questa antenna che c'hanno i radiali, il piano di massa, diciamo che c'ha questi radiali da 15 centimetri, praticamente le cornacchie non te lo spaccano, tutto lì, invece la 95 è un casino con le cornacchie. L'importante è che non disturbi, così, la cosa migliore è che non disturbi gli altri. No, negativo, no, non disturba nessuno. Io sto usando questa canna da pesca che è autocostruita, dai. Fortunatamente, ce l'ho proprio attaccata, diciamo, all'altra parte del muro c'è il televisore della mia vicina di casa, non c'è mai la ventata, quindi vuol dire che non disturba. Avanti, Cla. K di Rosmetro, noi ho commutato a far andare un po' il K. Bene, bene, dai. Mi senti sempre, sì. Sì, hai perso un paio di punti di Santiago. Anzi, 3 punti. Questo sta andando con 20 watt modulati 30, 35, dai. Però facciamo andare un po' questo. Comunque in ogni caso non ho problemi, ascoltate, sempre ultimamente bene, poi la radio questa è la classica tua radio, no? No, beh, questa è quella di sempre, quella che io sempre, questa è 140. No, ma siamo fatta apposta per te questa, tra l'abbinamento Kenwood MC70, si avrà fatto per te. Aspetta che mi allontano un attimo, prendo il sito. Sì, attica. Guarda, ti posso garantire che io ho iniziato ad usare l'MC60 ed era appena uscito, questi tipi di radio 430, 140, C80, 440 è uscito dopo, nel 1986. Più o meno gli anni di questo apparecchio qua, dai, forse anche, vabbè, siamo lì qualcuno in più. Però va bene, no, un bel microfono, forse è migliore che ha fatto, no, la Kenwood. Beh sì, assolutamente sì, te lo posso garantire perché io li ho provati tutti, è rimasto ancora oggi sempre il numero uno, perché è un microfono che puoi usare anche con altri tipi di radio, si adatta molto bene. Io ho anche l'MD100 della Yaesu che è simile all'MC60, però non spinge come l'MC60, capito? Assolutamente. Questo c'è una caratteristica molto molto particolare e viaggia alla grande. No, hanno trovato proprio un bilanciamento ottimale proprio, la voce bella, corposa, forte, insomma, molto, a me piace molto, dai. Si potrebbe anche adattare a un baracchino, sì, non ci sono problemi, no? Sì, basta mettere la batteria all'interno, lo fai usare, perché questo è diretto, l'alimentazione è diretta dalla radio, ma volendo ne metti la batteria all'interno e per alimentare il circuito di preamplificazione, capito? Ma quanto va alimentato? 6 volts. Ho capito, quindi ma due batterie, no, due batterie. Che batteria c'è da 6? Boh. O gli metti una da 9 con una resistenza? Boh. No, due batterie di quelle stilo, due batterie di quelle. E con quelle sono un e mezzo arrivi a 3, capito? E due di quelle ci sono dentro, non ce ne sono altre. No, allora sarà 3, non lo so. O c'ha due circuiti diversi, magari quello esterno è diverso da quello delle batterie. Sicuramente sì, però se te lo apri un 60 c'ha il basamento da due stilo, capito? Da due stilo, perciò evidentemente è così, non lo so, vabbè. Comunque io non ne ho mai usato, non ne ho mai fatto modifica, l'ho sempre usato sui K, quindi so che funziona così. Era una curiosità per vedere come si comporta con un apparecchio del genere, dai, insomma, una curiosità, se qualcuno l'ha mai usato, l'ha mai adattato. Sai che se vai a comprarlo, ma non so, tiene sempre il prezzo il microfono lì, perché sicuramente qui ci trovi un ottimo microfono. Guarda, io ne ho comprato 4, non uno, non 4, perché avevo tutti i dati, vendendo le radio, dammi anche il 60, va bene, tanto il 60, alla fine sono rimasto senza. Ne ho comprato 4, quello che ho pagato meno è 70 euro, gli altri 90 euro, 3 90 euro e uno 70 euro. La cifra è attorno ai 100 euro, sì. No, bella radio, davvero, mi piace molto. Sì. E vabbè, è così, sono degli ottimi microfoni, non creano problemi, perlomeno insomma, se lo tieni bene, che non fai prendere umidità, queste cose, va bene. E io qua, quando finisco, li copro tutto sempre, mi metto una specie di asciugamano, io una bandiera tricolore, la metto sopra, qualcosa di umidità in meno gli arriva, dai. Sì, no, ma c'è molta gente che tiene in cucina le radio, quelle così, queste non sono radio da tenere in cucina, capito? E poi tutto il grasso che si attacca, madonna, è un peccato. Sì, a volte vedo apparecchi, mamma mia, trattati proprio malissimo, non solo apparecchi radio, anche altre cose. Gente che poi magari fuma pure, pieni ingialliti da nicotina. Ma con i cani questi due? Oh, Franco! Ehi, arrivi! Adesso sto regolando questo M300, li voglio togliere l'eco dal trimmer. Come mi ascolti così? Bene? No, troppi alti, troppi acuti. Guarda un po', 1, 2, 3. Non è bella, non è bella, a me non piace come radio. Cioè, chiarissima, però non lo so, sembra che tenda quasi a lettare. E così sempre uguale, giusto? Sì, sì, dentro un palato, una scatoletta. Guarda un po', e adesso? È uguale, ancora no, non va bene. Così sempre uguale? Sì, sì, troppi frequenze medio-alte. E non è abbinato per questa radio, non va bene, dai. No, no, non piace. Andava, dai, riprendi, ci metto l'MB4, forse lo lascio per l'altra radio, dai. Vedi, adesso all'inizio del passaggio sembrava un po'... poi alla fine invece stavo di nuovo diventando troppo alto. Cos'hai fatto? Forse hai cambiato distanza dal microfono? No, gli ho abbassato la preamplificazione. Così va bene, così, come adesso. Guarda adesso, sempre uguale? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Guarda un po', 1, 2, 3. Ma così va bene. Guarda, va bene così. Sì, sì, così va bene. Alla grande. Adesso ho cambiato radio di nuovo. Sono con 430, questa è più. Sì, questa è più corposa ancora, più frequente basse. Ma è sempre lo stesso microfono, solamente che lo sto regolando da dentro i trimel. Se va bene così lo lascio così. Se vuoi provare ancora a modificare, si può migliorare ancora, però già rispetto a prima hai migliorato. Aspetta un secondo, Ho detto fra, adesso ho montato al 430, questa è più da combattimento. No, come potenza dovrebbe essere la stessa, il segnale è molto simile. E la radio è un po' più grossa, più corposa, più frequenze basse. Più da combattimento, va bene, va bene. E anche questa, io facevo 10 anni alla radio, fatico. No, quando escono bene, no, ripeto, la radio che esce meglio in AM, poi magari non so se in banda come si difenda, però in AM non ce n'è per nessuno, né Iaesu, né le altre, come si chiama, ICOM. No, no, quelle vanno bene in FM, in SSB, questa va bene a tutte le parti, FM, AM, SSB. Va bene, vanno bene. Ottimo. Poi vabbè, io comodo, ho la T250, c'ha 4 ingressi d'antenna, 4 uscite d'antenna, capito? Quindi lo uso tutte e 4 le radio. Lo uso tutte e 4, anche l'FT920, tutto. Va bene, ottimo, ottimo. Va bene. Prova a vedere come stai andando adesso. Adesso l'ho chiuso l'eco e gli ho aumentato appena di preamplificazione. Tu, secondo me va meglio così, fra, no? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 1, 2, 3. Non lo so, siamo un po' strozzata la radio. Per me era meglio prima. Aspetta che lo metto, dai. C'è una tonalità, mica. No, adesso stai perdendo la radio. Al contrario, fra, devi girare sicuramente. Bianco. Non stai uscendo. E adesso? Adesso sì. Adesso sta uscendo, però. Adesso va bene. Dai, da te. Sì, parla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, adesso è migliorato. Adesso non è più strozzata, ma è più squillante. Quindi la lascio così, dici? Io ti sento bene adesso. La confermi, se va bene la lascio così, Io, allora tu capo, no, adesso è il capo. Ok, dai, lo lascio così, adesso lo chiudo, le metto il capo, lo lascio stare. Sta dicendo, ma quando li compri nuovi quegli apparecchi non escono bene in AM, che modifiche devi fare? Filtri, roba così, ci devi spendere soldi sopra? Beh, 430, il filtro AM è opzionale, quindi io devi montare, io l'ho montato Fabrizio. C'hai secchio e sei spostamento e prendi colpi a tutte le parti, poi non è allineato bene. Invece col filtro M va molto meglio la radio, questo c'ha tutti i filtri. 430 e 440 diciamo che in AM hanno sì massimo 40 watt, se superi quella potenza fai negativo. 140 e 80 hanno 30 watt in AM, e per poter picchiare forte come quello che ho io c'è una piccola modifica da fare senza toccare molte cose che mi aveva insegnato circa 23 di Chiaramonti, io insomma l'ho portato avanti e me li ho sempre fatti io, qualcuno l'ho fatta a qualche amico, ma niente di che. E comunque funziona sempre? Alla grande. Guarda, io ne avrò venduto, senza esagerare, di 140 almeno una quindicina. Di 80 ne ho avuto 6, di cui uno ce l'ha ancora Franco, di 440 ne ho avuto 8, di 430 ne ho avuto 4. Questo è l'ultimo che avevo preso, l'ho preso la Walter e ce l'ho 10 anni. Funziona sempre magnificamente bene, sempre magnificamente bene. Quindi tutte quelle che ho venduto, che poi qualcuna mi è rientrata come queste, sono rientrate sempre in perfetto stato. Mai avuto un problema o uno che si è lamentato, niente, assolutamente niente. 440 è una radio un po' particolare, però io quelle che ho dato le ho date sempre revisionate a posto. Quando comprate su internet state attenti, perché se non sono revisionate vi possono lasciare lì. Vediamo se Franco ha chiuso. No, comunque solo 140 ha bisogno del filtro, invece da 430 in poi c'erano già le serie. No, solo il 440 c'ha i filtri, il 140 c'ha quello SSB, non ha bisogno di quello M, mentre il 430 c'ha quelli ne ha 4. SSB, CW, FM, AM. Quindi più completo il 440, lo prendi, lo attacchi e stai andando. No, anche il 440, se lo chiedi completo te lo mandano completo, se no te lo mandano senza filtri anche quello, però quello M non serve. Il filtro SSB ti mettono nel 440, devi chiedere col filtro SSB, perché c'ha la parte dei filtri che la può mettere in automatico e quindi si riprende automaticamente mentre cambi banda. Il 430 è più meccanico e quindi ha bisogno di 4 filtri separati, io ce li ho tutti e 4. Stavo dicendo, Fra, va sempre bene, sì? Dopo stai gridando, Fra, non gridare, cazzo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abbassa la tampa. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non hai abbassato niente, abbassa. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prometto un po', è barattolosa, prendi Franco binario. Sì, anche qua è sempre forte, no? Sembra che non stia cambiando niente, abbassa ancora. Vabbè, adesso l'ho montata su un'altra radio, eh. Puoi abbassare ancora. Guarda adesso, 1, 2, 3. No, troppo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così è la salotto, perfetta. Quindi la lascio così, va bene. Confermi Claudio. Claudio. Sicuramente si è allontanato, o Fra. Però vabbè, poco fa era troppo forte. Vabbè, se l'ho regolata da dentro, L'ho fatto la taratura e l'ho abbassata dal Michigi. Cos'è, che trimmer hai toccato? A2, ne ha uno della prima amplificazione, praticamente quello dell'eco. Quello dell'eco l'ho abbassato leggermente, perché, guarda, adesso c'è un po' d'eco. Sì, c'è un po' di reverbero. Adesso c'è l'eco, perché poi se lo aumento, praticamente va così, capito? 1, 2, 3. No, va bene, non è neanche invadente. E adesso l'ho lasciato così, regolato così, già va bene. Ho messo il Michigi praticamente a 2 e la preamplificazione ce l'ho a 1. Va bene, siamo vicini qua, arrivi fortissimo.